Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21 passate da un minuto in questo preciso istante. Buonasera da Blu Radio Veneto, buonasera soprattutto dal sottoscritto Agostino Spallore, che anche per questo giovedì è qui presente, nonostante la brutta giornata triste per la musica, vista la scomparsa di Lucio Dalla, ma siamo qui sperando che la musica della nostra ospite splendida, tra l'altro, ci riscaldi il cuore e ci faccia passare questa malinconia, questa tristezza. Buonasera da Agostino Spallore, ma buonasera anche da... Ciao Maurizio. Sì, buonasera Agostino. Ho visto giustamente che, come da nostra tradizione, non hai tagliato nemmeno un briciolo di Barry White. Perché dovevo tagliare? Assolutamente, Barry White non si può tagliare, assolutamente. Allora, questa sera abbiamo una grande artista, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima i nostri dati, come di consueto, il nostro numero telefonico con in studio è lo 049-875-6423, mentre per quanto riguarda quello dei vostri sms, vi ricordo, è il 346-2320-033. Questa è la fascia oraria chiamata semplicemente Blu Radio Sera, in onda tutte le sere dalle 21 alle 22:30 con il martedì, mercoledì e giovedì facciamo i live, anche se il mercoledì magari lo spostiamo di un'ora. E poi vi ricordo il nostro sito www.bluradioveneto.it, ci trovate tutte le informazioni inerenti alla nostra regione, ma anche recensioni sulla musica, recensioni sull'artista che viene a trovarci ogni sera o quelle sere, insomma, che leggerete nell'articolo, e poi ancora, insomma, tante altre notizie, anche fatti di cronaca, insomma. E poi ancora le nostre pagine di Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, la prima, la seconda, ne abbiamo due, gestita dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, si chiama semplicemente Blu Radio Veneto Rock Wave. Credo di aver detto tutto, no, dimenticavo le frequenze, 88.700, 94.600 MHz in modulazione di frequenza, questa, ripeto, è Blu Radio Veneto, e questa che sentite adesso è la voce di una carissima amica, prima di tutto, ed è una bravissima artista, Francesca Romana Perrotta. Ciao Francesca! Ciao Agostino, ciao Maurizio, buonasera! Buonasera, benvenuta, Francesca! Benvenuta a Blu Radio Veneto! Grazie, da tanto tempo che dovevo venire qua. Ma tu sei già stata ospite telefonica nostra, insomma. Sì, sì, sì. Con Francesca. Però è diverso. E però è diverso. Adesso sei qui fisicamente, ci canterai le tue canzoni dal vivo, in acustico. Allora, fatto un buon viaggio, vieni da... Ma relativamente vicino, anzi in teoria da Cesena, però stasera siamo proprio partiti da Bologna, quindi... Insomma, un'oretta di strada. Sì, sì, sì, siamo vicini. Le origini sono più lontane. Tu sei leccese, se non sbaglio. Sì, sì. Salento, il Salento che ha portato, grazie ai Negramaro, è stato scoperto da tutti. Salento. Sì. Ultimamente, per questa così tradizione della taranta, certo, la pizzica, è venuto fuori il Salento. Bene. Beh, va bene. Posso fare un augurio al vostro pubblico, certo, con una piccola chicca, e direi, perché... Vi dicevo prima, no? Ci sono due canzoni in particolare che hanno sancito il mio esordio nazionale, e una di queste, poi dal titolo emblematico, è In genere sogno, non si trova in nessun album, è stato pubblicato solo un singolo, per cui vi faccio questo regalo e anche... Subito vuoi cantare? Sì, sì, lo voglio fare subito. Già rompere il ghiaccio immediatamente. Così. Adesso scardino tutte le scalette. Vabbè. Sì, infatti io non ho... Va bene. È tutta tua. Perché ho pensato adesso che... È un saluto. Il microfono è tuo, puoi già suonare. Va bene. In genere sogno. La notte si toglie la giacca, luna di schiena ci guarda. Dopo la quiete e la fretta, tu sei già la mia punizione perfetta. Non voglio farti star male, tu tanto male non stai mai. Dammi l'assenzio, che il tempo è una scusa da vivere. Galleggio nel verde, da qui non c'è niente da stringere. Immagino, dormo, sogno, qualcosa del genere. In genere sogno. Sogno. sono l'inchiostro che scrive. Prima del tempo del foglio, colpa del treno partito, mi sono distratta, non sono salita, non voglio farti star male, tu tanto male non stai mai. Dammi l'assenzio che il tempo è una scusa per vivere. Galleggio nel verde, da qui non c'è niente da stringere. Immagino, dormo, sogno, qualcosa del genere. In genere sogno. Dammi l'assenzio che il tempo è una scusa da vivere. Galleggio nel verde, da qui non c'è niente da stringere. Immagino, dormo, sogno, qualcosa del genere. In genere sogno. In genere sogno. La grinta si sente subito. E ne sapeva qualcosa anche Fiorello della tua grinta, vero? Sì. Vedi che sapevo certe cose. L'ho scovata. Sì, com'è stato il discorso? Cioè, praticamente è stato lanciato, anche Fiorello è piaciuto molto, in Viva Radio 2 te l'ha messo su questo. Sì, è stato così. Prima l'ha mandato il mio produttore e non è successo niente. Niente. Poi ho inviato una letterina scritta a mano. Perfetto. Con dentro di nuovo un'altra copia di In genere sogno. A Fiorello ho scritto: guarda, questa l'ho scritta io, ho scritto la musica, ho scritto il testo, e sono una giovane cantautrice, so che tu dai spazio, insomma, certo, alle nuove proposte, leve. Così. Mi hanno telefonato una settimana dopo che io dormivo, e Baldini e Fiorello. Ah, perfetto. E mi hanno detto: Francesca Romana, noi stiamo per mettere il tuo album, siamo Baldini e Fiorello. Io pensavo fossero i miei amici, che ormai sapevano che io stavo insistendo per andare lì su... E poi mi hanno detto: Francesca Romana? E io: sì, guarda, siamo Baldini e Fiorello. Io: ma veramente? Sì, tra mezz'ora c'è il tuo disco. E dopo l'hanno passato per un po', perché comunque poi è piaciuto. Certo, sì. E quindi mi hanno aiutato molto. È ma stato... non solo loro, però, ha girato in tantissimi... Ha girato tantissimo, perché c'era anche un video che, tra l'altro, la regia l'aveva curata mio fratello. Di questo video, e anche il video era andato proprio tanto, è stato un ottimo esordio nel 2004, insomma, per me che ero proprio giovanissima, alle prime armi. E hai rotto il ghiaccio. E ho rotto bene il ghiaccio, certo. Sì, sì, sì. Anche perché Ciliegina sulla torta ha vinto il team sì. A Trieste con questa canzone. Sì, sì, sì. Però prima facevi la panchettara. Sì, sì. Che bello fare la panchettara. Bellissima. Allora, sì, sì. È bello perché ti sbizzarrivi anche nel look, tutta la band con cui suonavo. Sì, che la band si chiamava Zero in Condotta. Zero in Condotta. Eravamo tutti truccati, vestiti in maniera particolare. E anche i brani che scrivevo ovviamente erano un po' fuori dagli schemi, no? E in questo essere così molto libera, non nella creatività, non ero incanalata in degli schemi, alla fine avevo avuto un buon riscontro. Poi dopo, insomma, questo te lo stavo già raccontando, sì, prima. A microfono spento, ma la puoi dire anche a microfono aperto. E niente, la presunzione di tutti... All'epoca c'erano praticamente i Blue Vertigo e i Subsonica, il periodo di quello sì. È il periodo... cardine dell'esplosione. Cioè, Max Casacci di Subsonica stava cominciando, sì, anche lui. No, poi aveva sentito anche proprio questi nostri provini, certo. Li aveva portati a Roberto Rossi della Sony, insomma, quindi era un bel giro. E invece tutti si sono troppo esaltati probabilmente e hanno pensato di poter fare il loro disco subito senza, insomma, passare per le cose come si devono passare, però... E le cose non sono, insomma, sono esplose, si sono frantumate così, e poi io ho ricominciato poi da sola, però a quel punto ero ero cresciuta io come persona, quindi la mia scrittura era cambiata. Però il punk ce l'hai sempre nel sangue. E poi, poi sentiamo il perché ce l'hai ancora nel sangue il punk. Sì, sì, sì. Okay, vale. Ah sì, sì, proprio. Siete già d'accordo? Sì, chiaramente. Ah. Allora, Francesca, tu dici: non vedo altro che una sottile e vacillante colonna di fumo davanti a me. Dammi le note e lasciami cantare. Sì, sì. Quanta voglia hai di cantare tu? Ma allora, tantissima, di cantare ne ho bisogno. Mi sono resa conto spesso nella mia vita, soprattutto in questi ultimi mesi, che se non canto io sono una persona perduta, cioè non sono più io e tendo a diventare un qualcosa che neanche mi piace. Quindi cantando io poi rimango sempre in contatto con me stessa e tiro fuori il meglio di me, la parte migliore di me. Se non canto è una brutta cosa. Non stai bene, diciamo. No, no, no. Tu devi cantare. Sì. Quindi di conseguenza sei anche molto prolifica in fatto di testi. Ma sì, sì, però non è che ho questa ansia di scrittura, perché ho avuto sempre, per adesso, la fortuna, speriamo che continui così, che a un certo punto io vengo investita dall'ispirazione e molto velocemente io partorisco un pezzo. Non ho... Ah, bella sì, questa sì, cosa. Per adesso è andata sempre così. Poi... Di notte magari? Di notte, no. Sicuramente non succederà più di notte, perché adesso la mia vita è un po' cambiata per vari motivi, però sicuramente non la mattina o con... Insomma, deve essere un po'... vicina all'ora del tramonto. Anche tu, come tutti, se sei fuori, telefonino alla mano, registri? Sì. Classico. Mentre guido in macchina, ah, ecco, registro il la la la. O sì, il ritornello, insomma, praticamente. Ma non proprio il ritornello. Dipende il pezzo, cioè qualche momento, sì, del pezzo. Certe volte ho proprio la frase con la musica, una frase con la musica, che non so se sarà una strofa o un ritornello, precisa, proprio... mi viene alla mente e poi da lì si sviluppa la canzone. Dicevo un musicista che è passato qua qualche settimana fa, che lui in macchina spesso e volentieri compone, scrive e deve fermarsi assolutamente, perché per non lasciarsi sfuggire quello che ha in testa, si ferma, prende il telefonino e lo canta e poi riprende. Si ferma, ecco. Si ferma assolutamente, perché deve aggrapparsi a quello che ha pensato. Sì, sì. Allora, Francesca, questo è lo specchio, ci ascoltiamo già qualcosa? Vuoi? Ci fai qualcosa dal vivo o ascoltiamo qualcosa? Ascoltiamo qualcosa dallo specchio. Dallo specchio, questo, ci racconterai poi questo specchio. Sì, sì. Cioè, cosa hai scelto? Ma io ho scelto una canzone che interessava molto Maurizio, si chiama Giovanna la pazza. Sì. Adesso ne parliamo, dopo ne parliamo il perché interessa molto, sì, a me, sì, e a te praticamente. A me poi. Appunto. Sì. Giovanna la pazza, Francesca Romana Perrotta. Piccola dentro le mura di questa stanza bianca, misera dentro le mura dove sei rinchiusa. Lui dirà che non essendo, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sì, Giovanna La Pazza, una storia molto triste di una regina con grande forza che si è praticamente si è sacrificata per il figlio che praticamente ne ha approfittato. Però era una grande, un grande personaggio, considerata un po' strana perché non era convenzionale, era così? Sì, lei figlia di due re cattolici. Esatto, spagnoli. Isabella d'Aragona e Fernando. Esattamente. E sì, sì, sin da piccola si rifiutava, insomma, di seguire i precetti cattolici, insomma, quindi la madre, figurati, era impazzita perché loro erano protetti, no? Certo, dalla Chiesa. Certo. E lei invece aveva già le sue idee, giusto o sbagliate che fossero, insomma, era una tipa, insomma, sicura di quel che voleva. E poi invece, essendo comunque una donna e quindi propensa ai sentimenti, al cuore, certo, invece poi ha ceduto e si è lasciata fare, sì, dal marito, dal padre e poi dal figlio, che praticamente l'ha segregata, poi fino alla morte in una torre. Sì, sì, per prendersi ovviamente il potere, praticamente il potere. E tu ti sei ispirata a questa vicenda tragica, è vera, assolutamente sì, vera, e dal punto di vista musicale l'hai colorata in maniera abbastanza, sì, divertente però. Sì. E perché? Allora, il testo è tragico, è importante, e la colorazione è abbastanza divertente, accattivante, quasi che il testo non fosse così. Sì, perché certe volte, vabbè, parte l'idea della tragedia, della comicità, che sono sempre, insomma, vicine, sì, alla, certo, fine. Questa musica un po' rock and roll, quasi, sì, se esattamente vogliamo, stride appunto talmente tanto col testo che secondo me crea quella tensione necessaria, perché se avessi fatto anche la musica così pesante e di introspezione triste, sì, forse sarebbe passato un altro messaggio. Quello che volevo far passare io era anche un po' l'aria giovane di Giovanna, perché la forza di questa persona, sì, questa freschezza, che perché tanto poi alla fine è morta giovanissima, sì, esatto, sì, di stenti, sì, di stenti hanno procurate delle sofferenze immani, sì, pur essendo regina, sì, lui, sì, è morta ancora regina, lei assolutamente, sì, i suoi, sì, titoli, sì, non sono stati toccati assolutamente. È morta, però insomma è morta in modo posso neanche raccontare, sì, come però appunto questa musica era un omaggio all'età così giovane, no? di questa principessa regina. E il resto invece, il testo racconta poi invece la tragedia della sua vita. Esattamente. Un bel pezzo, indubbiamente, arrangiato bene, dà un certo risalto. La traccia numero del disco? È la traccia numero 2. È significativa la traccia numero 2, secondo me. L'hai messa apposta in quel momento, perché di solito i musicisti mettono apposta le tracce, non sono così messe a caso. Sì, ci pensi tante volte. E ci pensate molto, molto. Forse troppo, perché poi alla fine sei lì che dici, no, ma questa prima, questa dopo. Poi tante volte, adesso soprattutto, forse prima meno, la gente salta da un pezzo all'altro. Eh sì, perché adesso ci sono le cose elettroniche. Sì, prima invece ti dovevi ascoltare tutto il disco. E giusto, quindi aveva anche più senso. Agostino si ricorda quando c'era il disco. Chiaramente, sì, c'era la puntina, non potevi. Ancora, sai. Chiaramente abbiamo ancora. Non potevi saltare. Dovevi sentire tutto quanto, traccia per traccia. Certe volte io facevo. Dimmi, come facevi? Con gli LP, no? Che vedevi un po' la differenza dei soldi. Sì, vero, questo è vero. Sì. Allora c'era un disco di George Harrison, Cloud Nine. Sì. Di cui volevo sentire sempre lo stesso pezzo. Il stesso pezzo. Avevo imparato guardando in controluce dove era il punto, e allora mettevo la puntina lì. Ma c'era un sistema anche, potevi arrivare in un certo punto, sempre si ripeteva. C'era il sistema. Ah, sì? Sì, sì, c'era. In qualche piatto c'era quel sistema. È vero. Però doveva scendere sempre giustamente con calma, sennò faceva un solco e poi si sentiva più niente, però c'era quel sistema. Noi quando eravamo in regia, comunque quegli anni là, facevamo più fatica di adesso è tutto computerizzato. Ma no? Immagino, madonna mia. C'erano, sì. Io mi ricordo che avevo il panno verde sotto il disco, il sì, vinile, certo, che era leggermente più grande, quindi lo tenevi in mano perché la bellezza stava proprio nel farlo partire. E a volte magari la puntina saltava, la testina saltava, quindi partiva facendo... Bello, dai. Erano altri anni, erano gli anni, sì, 80, sì, insomma, altri tipi di radio, altre cose, insomma, altra musica anche. Lo stavamo dicendo prima fuori onda, no? Di altri tipi di radio. Allora voglio dire questa cosa in diretta. Dimmi. Che sono molto felice che esistano delle realtà come questa, rare, e vorrei che anche altre radio, soprattutto i network, facessero 2 passi indietro, che sarebbero poi 10 passi in avanti, e tornassero a una verità di fondo, cioè facendo un regalo alle persone, facendo sentire anche altra musica al di là delle hit, dei primi 10 posti, insomma così, perché la gente ha il diritto di ascoltare più varietà. Io personalmente non amo il jazz, però per esempio, perché nelle radio si sente pochissimo jazz, non si sa, il non blues. Qui, non qui. No, no, io parlo appunto di chi non lo fa. Scorsa. Parlo di chi non lo fa, e quindi volevo dirvi bravi in diretta. Grazie, grazie, sei un amore. Sei un tesoro, Francesco, ma d'altronde noi è la nostra politica, quella di dare lo spazio, e non ci facciamo coinvolgere dalle major, dalle etichette e da quant'altro che ci impongono le loro volontà. Le canzoni le scegliamo noi a nostro gusto, insomma, magari. Quindi poi, sai, ognuno, la musica è soggettiva, ognuno ha i suoi gusti. Magari uno può piacere o l'altro no, insomma, comunque è una scelta libera, questo sì. Come dovrebbe essere sempre. Esatto. Insomma, 170 live l'anno scorso stanno a sono tanti, insomma, che... 170 like. Anzi, Maurizio, permettimi di salutare. Ne approfitto, ti rubo 30 secondi, Francesca, per salutare gli ascoltatori di questa emittente, e soprattutto un ringraziamento per giovedì della settimana scorsa, che abbiamo invaso il mondo, nel senso che ci hanno ascoltato dall'Argentina, dall'Australia, dalla Nuova Delhi in India, da Austria. Insomma, abbiamo avuto ascolti veramente in tutto il mondo, ci ha fatto un mondo di piacere. Giro di parole. Chiuso la parentesi. Sì. Quindi sei arrivato allo Specchio, questo è il tuo ultimo disco, ma il percorso com'è nato dallo Specchio? Io prima... la farei chiacchierare dopo. Ma facciamo chiacchierare dopo, facciamo sentire qualcosa. Dai. Qualcosa da io voglio sentire la voce di Francesca. Cosa ci fai ascoltare adesso? Ma adesso invertiamo le 2 tracce dello Specchio. Allora, l'incipit dello Specchio è una canzone che... mi ha portato fortuna. Poi diciamo anche il perché dopo. Si chiama Il tuo nome e il veleno. Quindi la facciamo ascoltare dal disco? Sì. Ok. Vabbè. Guardo lontano oltre il vetro che mi divide dal vento, sporco di luna sulla finestra. Conchiglia sedotta dal mare in tempesta. Sto diventando un riflesso d'argento. Mentre respiro il momento, mentre respiro per te soltanto. Il profilo che il chiaroscuro concede, ma tu cerchi il fianco che l'occhio non vede. Prendi l'ossigeno dalla mia bocca, cade una goccia, ritorni più lento, mentre trattengo il momento. Mentre io tremo per te soltanto. Piove sulle mie guance rosse d'amore. Piove dentro tutte le nostre vene. Piove mentre il tuo fumo inonda. Sul negare. Come il liquore malato in cui ti piace negare. Piove sulle mie guance rosse d'amore. Piove dentro tutte le nostre vene. Piove mentre il tuo fumo consuma la stanza. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Fascia oraria chiamata appunto Blu Radio Sera. Questa è la voce di Agostino Spolaore, che assieme al mio fedele compagno di tante interviste live qui in studio, cioè Maurizio Calzavara, stiamo cercando di conoscere un po' di più quest'artista leccese, ma vive, come sentito, in Emilia Romagna, e che ci è venuto a trovare questa sera. Fino alle 22:30 saremo con lei e ascolteremo la sua musica. Chi volesse interagire con questa nostra brava, bravissima artista, vi ricordo il nostro numero di SMS, che è il 346 23 20 0 33. Blu Radio Veneto vi regala sempre e comunque la bella musica. Questa sera abbiamo Francesca Romana per Rotta. Certamente. Il tuo nome è Veleno, è un pezzo importante, anche musicalmente molto ipnotico, molto interessante, sinuoso, e poi ha vinto un concorso straordinariamente fondamentale per la musica italiana, musicultura. Sì. Allora, tu mi stavi facendo i complimenti, io invece ti stavo dicendo dimmi. Che sento, ho sentito soprattutto la seconda volta che non ero... Era la seconda volta che vinci musica. Sì, era la seconda, la prima volta nel 2007 e poi nel 2010. Esatto. Mi mancava qualcosa, probabilmente, nonostante questo brano, anzi l'ho messo proprio come prima traccia dello specchio, quindi per me è importantissimo, certo. E mi piace da morire. Però nella mia testa probabilmente volevo partecipare con un altro sì, pezzo. Me lo dicevi, avevi qualche altro pezzo, cioè nella tua testa volevi un pezzo più, forse non dico trasgressivo, un po' più diverso, particolare. L'avevo in testa, perché a Musicultura tu mandi tre brani. Certo, sì. Ed ero convinta che avrebbero scelto quello, invece no. Hai scelto quello che... Hanno scelto il tuo nome, Veleno, che appunto per me è sempre bellissimo, però chissà perché io quella seconda volta, forse perché anche la prima volta avevano scelto una ballata, una ballata abbastanza lineare, allora questa seconda volta volevo che probabilmente vedessero di me anche un altro lato indie, un po' sì. più trasgressivo tra virgolette. Sì, sì, anche proprio da cantautrice, sì. Ecco. Invece niente. No, probabilmente loro amano di me a Musicultura questo lato più etereo. E che palco c'è a Musicultura? Oh, oddio. È importante, è significativo. Allora, ci sono tantissimi palchi. Mm. Tu cominci presto, a gennaio e finisci a giugno. Esatto, sì. Ed è una serie interminabile praticamente di esami. Sì, continuamente. Una scatola cinese continua. Sì, sì, continua, tutti dal vivo, ti vivisezionano in tutti i sensi. E passi per palchi importanti, teatri importanti, due teatri, la Filarmonica di Macerata e il Teatro Persiani di Recanati. Per poi passare negli studi di Radio 1 in diretta. Certo, tutto più in diretta. Volte. Ecco, e poi dopo finisci allo Sferisterio, quindi nell'Arena. La magia proprio continua. Con migliaia di persone davanti, in diretta Rai, anche lì. In diretta Rai, Radio 1. Sì, e poi ti mandano anche in TV, su Radio 2, su Rai 2. Su Rai 2, quindi sì. Insomma... è una bella vetrina. Sei sempre esposto in situazioni molto prestigiose, a contatto con artisti bravissimi, tutti, anche proprio nelle fasi preliminari, insomma c'è sempre gente di altissimo livello, l'attenzione si sente molto. La prima volta non l'ho sentita perché ero presa da altre cose mie personali, e la seconda volta invece l'ho sentita parecchio, e mi duole che sia successo questo perché avrei voluto divertirmi un po' di più. No, perché è un'atmosfera magica lo Sferisterio. E la prima volta, paradossalmente, anche se io appunto avevo altre cose che mi occupavano la testa, paradossalmente me la sono vissuta meglio. Ah, ho capito. La seconda, e quindi detto ciò, non escludo che io non faccia una terza volta. Una terza. Hai già pronto i tre pezzi anche per quest'anno? Io adesso ho due pezzi nuovi che sto pensando però di proporre a qualche... sono già finite però, si fanno da o no? Per il 2013. Il 2013, perfetto, sì, quella è, siamo in tempo allora. Ci sto pensando, ci stai seriamente. Pensando. Può darsi. Può essere, Di sentirti sempre al teatro di Macerata nel 2013. Non si sa mai. Magari. Magari. Quest'anno è andato anche Luigi, giusto? Tuo caro amico. Sì, no. Sì. E anche Giulia Daici. Sì, e comunque Luigi l'ho instradato pian piano, no? Perché gli dicevo, guarda, fai prima questo, poi prima questo, perché io ce l'ho già passata e sapevo che musicultura era una tappa da non fare subito, insomma, prima prova, certo. Perché devi un po' rodarti e infatti Luigi è andato bene. Io torno indietro un po' col tempo, Francesca, io cerco sempre l'anima dell'artista, te lo dico subito. Che emozione hai avuto mentre Dori Ghezzi ti abbracciava quando ti hanno consegnato quel premio di Faber e ti ha detto finalmente una donna dopo tanti uomini? Chi te l'ha detta questa? Non preoccuparti. Te l'ho detta io un'altra volta? No, non me l'hai detto. Io le so. No, allora è così, siccome me l'ha detto fuori dal palco, perché la premiazione è stata, c'era Massimo Cotto che è un vostro collega in realtà. Sì, no? Un DJ famoso, uno scrittore musicale. Che mi premiava e mi diceva, tra l'altro, mi diceva, io avrei voluto darti anche l'altro premio, perché c'erano due premi, c'era la migliore interpretazione e miglior testo. Erano due premi pari merito, due primi posti in realtà. E lui mi diceva, ma io volevo darti anche il miglior testo, si era sottolineato delle frasi della canzone. E Dori Ghezzi è stata zitta durante la premiazione. Quando siamo scesi dietro le quinte, mi ha abbracciato e mi ha detto questa frase e lei si è messa a piangere, quindi io di riflesso ero talmente emozionata. Avevo accumulato anche tensione, insomma, così. Poi non mi aspettavo veramente per niente di vincere il De André. E, insomma, mi ha influenzato e mi sono messa a piangere pure io, quindi ci abbracciavamo piangendo. E lei mi diceva, vedi, a 10 anni dalla morte di Fabrizio io ho dato un premio a una donna per la prima volta. E quindi è lì tutti a piangere. Che poi hai avuto la collaborazione con Cristiano, giusto? Sì, guarda, lì è stata tutta una serie di quegli incastri, quelle coincidenze un po', certo, no? Particolari. Lui non era mai andato alle André ed era quello il primo anno in cui era ospite del premio dedicato a suo padre. Io anche non avevo mai partecipato al premio, sono andata lì, ho vinto ed era anche il periodo in cui lui, dopo tanto buio nella sua vita sia artistica che personale, ritornava fuori. E quindi non mi ricordo che mese, insomma pochi mesi dopo, due mesi dopo, dopo abbiamo duettato insieme, sì, tra c'è l'altro c'è un video che gira anche su YouTube, sì, su Cresa de Mar, Cresa de Mar, sì. Sì, certo. Quindi ho cantato in genovese perché mi ha costretta praticamente. Sì. E io volevo fare Amore che vieni, amore che vai, che è bellissima, che lui non faceva nel live, quindi ho detto no, io nel live non ce l'ho. E io ho detto vabbè, allora facciamo, non mi ricordo che cos'altro il suonatore Jones, sì. No, non faccio neanche quella, ma comunque non importa perché tanto ho deciso che tu fai Cresa de Mar. E me l'ha detto due sere prima, o la sera prima, la sera prima, sì, perché io poi ho passato la notte in bianco a imparare il pezzo. A imparare il pezzo in genovese e durante le prove si è anche arrabbiato perché ha detto, ma Francesca ti avevo detto che qui era così, e io ho detto, ma come, a una salentina tu, poche ore prima, vuoi insegnare, vuoi che io da sola impari il pezzo in genovese? Ho detto adesso te lo tieni così, io canto così. E infatti poi, però insomma è andata bene. Ti porto i saluti di Giulia Daici che ti sta ascoltando. Grazie, altrettanto, anzi un bacio. Ciao Giulia, è un'altra che è passata recentemente qui nei nostri studi, ha fatto il live. Poi ti faccio un'altra domanda su un altro tuo grande amore musicale, ma prima però voglio ascoltare qualcosa di... Abbiamo appurato che De André è uno dei tuoi appassionati, giusto? Sì, sì. Artisti. Non lo conoscevi molto, poi da lì poi insomma ti sei... Sì, perché ero di un'altra scuola. Ne parleremo dell'altra scuola. Cosa ci fai ascoltare adesso? Adesso vogliamo ascoltarti dal vivo. Dal vivo? Allora, visto che abbiamo parlato di musicultura, La prima volta che sono andata a Musicultura sono andata con un brano come in genere sogno, anche questo mai inserito in nessun album per mia volontà, che si chiama L'istante che vale, che parla proprio di quegli istanti della vita particolari in cui tutto succede e quindi sono pregni di significato. Ecco, questa ballata un po' eterea con cui ho vinto Musicultura. Ricordi, piangevi, memorie, frammenti di specchi, riflessi di sbagli. Come si dimentica subito il fatto, ridammi lo stagio che ho sono, oppure un coltello fa che tu sia un brivido fra sogni sparsi dentro una nuvola doppio nel vuoto di un gesto già fatto. Sei l'equilibrio che cerco, ma questo è l'istante che vale il biglietto d'ingresso. E adesso parole diventano carne, sudore di sangue, trafitto. Dimentica tutto l'astratto che c'era, non serve, non conta, non vale, non basta, ti sembro reale, non sono più reale. Dentro una nuvola doppio nel vuoto di un gesto già fatto. Sei l'equilibrio che cerco, ma questo è l'istante che vale il biglietto d'ingresso. Sei l'equilibrio che cerco, ma questo è l'istante che vale. Dentro una nuvola doppio nel vuoto di un gesto già fatto, io mi inchino distratta. Dentro una nuvola doppio, sei l'equilibrio che cerco. Dentro una nuvola doppio, sei l'equilibrio che cerco. Brava, brava Francesca. Meritati applausi. Capisco perché hai vinto Musicultura con questa canzone. È strana, è un po' astratto il testo, è difficile da capire. Però ha una sua magia, come diceva anche Maurizio, anche questa è un po' più ipnotica forse. Sì, esattamente. Da questo è del 2007, poi subito qualche mese dopo è uscito Vermiglio, è inciso Vermiglio del 2008. È un grande, sì, è un grande traguardo incidere un disco da sola, solista. Cosa dici? Sì, sì. Al di là del progetto con Zero Condotta, che è un'altra cosa. Sì, sì, è stato il primo vero album a livello nazionale, tra l'altro distribuito da una major, quindi sì, esattamente, in piena crisi, quindi ero una, come si dice, Vabbè, benedetta. Eri fortunata. Sì. È stata un'esperienza fantastica, tutta magica, perché proprio ci siamo isolati, come faceva Battisti con i suoi musicisti, in un casolare dove non prendevano i telefoni, non c'era internet, non c'era niente. Ho praticamente rapito per tutta l'estate tutta la band, più gli ospiti che venivano a suonare altre cose, e siamo stati in questo bosco a registrare Vermiglio. E Vermiglio si sente che è un album che ha qualche cosa di magico, al di là proprio delle canzoni, c'è quest'aria particolare, tanto che insomma in una delle tracce di Vermiglio ho voluto registrare il suono di una cicala fuori dalla finestra che accompagna tutto il pezzo, e poi vi farò anche sentire quale bene, brano. Bene. Quindi i silenzi del bosco sono stati significativi per incidere il disco, praticamente. Sì, tutti. La natura. Cioè, i musicisti all'inizio erano reticenti perché presi, devo suonare qui, devo suonare lì, ma come? No, ma tu mi tieni lì. E io ho detto: non mi interessa. Cioè, allora, chi registrerà quest'album starà lì. Loro erano i primi giorni tesissimi per questa cosa che il cellulare non andava. Il ritiro, praticamente. Sì. Dopo un po' invece si erano rilassati e insomma sono venuti a suonare anche Quinto Rigo, perché dovevano suonare in tre brani. Grandissimi Quinto Rigo, personaggi straordinari, sì. Quinto Rigo. Sono venuti che dovevano fare tre pezzi, tra l'altro in una giornata hanno registrato tutto, fantastici. E io ho fatto insomma le friselle, che è un piatto tipico salentino. La Chiara annuisce, ecco. La nostra fotografa è qua davanti. Ho fatto la frisella salentina, non se ne volevano andare più. E ecco, alla fine ho detto: ragazzi, noi dobbiamo continuare a registrare il resto, dovete andare. Vabbè. Sai che mi viene in mente che negli anni 70-80 lì c'era un altro artista che ha fatto come te, che si chiama Dario Baldambembo. Ah. E ha fatto l'album che si chiama Spirito della Terra. E all'interno c'erano vari artisti, tra cui anche Renato Zero. Quindi, anche lui aveva rapito tutti. Bravissimi, quanti? Ha registrato completamente tutto l'album dal vivo in mezzo alla natura. È un'altra cosa. È un'altra cosa. Infatti è l'album di Amico E, praticamente, giusto? Ah! Te la ricordi quella canzone? Madonna, sì. Vi dico questa cosa strana per farvi capire cosa è successo su Vermiglio. A un certo punto noi eravamo vicino al castello di San Leo, dove ci sono leggende particolari, tra l'altro c'è passato Cagliostro, sì, esatto, quindi, sì. Vabbè, insomma, e io era il periodo, poi ho smesso ultimamente, mi rammarico, però per tanti anni avevo studiato magia bianca, libri di alchimia soprattutto. E in quel periodo lì, quindi ero proprio piena di queste cose, c'era il castello vicino, insomma, avevo scritto una canzone che apre poi l'album Vermiglio, che si chiama L'Incantesimo, il cui ritornello era proprio un testo del libro di magia che stavo leggendo. E l'avevo registrata subito, avevo registrato subito il provino, ed è proprio in sottofondo, infatti. E quando siamo andati a registrare l'album, quindi, che stavamo in questo bosco, non so perché il mio pianista ha detto: no, ma la voce di questo brano io la voglio rifare. Io ho detto: ma perché la vuoi rifare? No, perché la voglio più precisa, la voglio più precisa, voglio usare un altro microfono, magari la facciamo dopo a casa mia in un secondo momento, perché voi sapete che la tecnologia permette di fare queste cose. E invece, quindi settimane dopo mi trovo da lui, cerco di registrare questa traccia e non veniva mai fuori nel computer, praticamente rispuntava fuori sempre la voce registrata vicino al castello di San Leo. E questo è successo 4-5 volte. Alla quinta volta il mio pianista si è rassegnato, mi ha guardato e ha detto: forse è meglio lasciare stare. Siamo stati rimasti zitti, abbiamo chiuso, spento tutto, e quindi nell'album è rimasta la voce la registrata traccia vicino al castello. Il provino, questa insomma è la prima volta che l'ho cantata, quello che sentite è stato così. Questa. Sì. Invoco l'universo, io chiedo meraviglia sto viaggio. E questi sono il Quinto Rigo. Sono il Quinto Rigo, esattamente. Sì, sì, bravissimi, il Quinto Rigo, straordinario. Mi permetti un secondo di salutare una ragazza, si chiama Martina, che segue e ha sentito il tuo disco, il nuovo disco, è stata molto entusiasta del tuo disco. Grazie. Stasera la sento sicuramente, la salutiamo Martina. Sì, ciao, la saluto anch'io. Allora, c'hanno il Quinto Rigo, la magia, il gruppo molto bravo, che quando sono andati a Sanremo non sono stati capiti, erano troppo avanti. Sì, erano troppo avanti, assolutamente troppo avanti. C'era John DeLeo ancora. John DeLeo, grandissimo John DeLeo. Fantastico, aveva scritto un pezzo. Bentivoglio Angelina. Sì. Bello, è stato proprio ultimo. Sì, è stato bocciato, è stato assolutamente. Anni 30, adesso sono in auge gli anni 30, ma lui 10 anni fa già aveva, insomma, ripescato questo. Non lo so. Poi dopo anche loro, vedi, anche loro si sono separati, sì, e quella magia si è andato via lui dalla band, però si sono ricostituiti senza di lui, però. Sì, adesso c'è Luca, che è un cantante di Roma, adesso il cognome non me lo ricordo, ma perché siamo molto amici con i fratelli Costa, che sono gli archi, sì, praticamente. E, però penso che così come erano, insomma, con John DeLeo, la magia non è più quella stessa. No, perché lì c'era anche la scrittura particolare di mezzo, cioè tutti scrivevano, ma insieme, insomma, riuscivano a produrre delle canzoni bellissime. E, vabbè, rimangono comunque dei musicisti, sì, insomma, hanno collaborato anche con la Consoli, hanno fatto il tour in Francia, certo, con Carmen Consoli, e sono di una preparazione unica. Quando abbiamo fatto la registrazione, quando abbiamo registrato questi brani di Vermiglio, loro, che sono veramente eccezionali, invece hanno voluto che io scendessi in sala riprese, quindi che scendessi dalla regia di questa casa di campagna, e li dirigessi. Quindi io ho fatto proprio con le bacchettine, insomma, che poi non erano bacchettine, erano due spaghetti. Sì, sì. E mi hanno fatto dirigere, cioè volevano che io in qualche modo partecipassi, portassi il tuo contributo, pezzo, esatto, mentre lo suonavano, per far capire magari i momenti in cui erano più forte, più piano, insomma. Bello, bello. È stato bello. Si vede che ne sei stata contenta, eh? Sei proprio, esprimi proprio felicità, gioia a raccontare queste storie. Sì, perché quando collabori con gente molto brava, che però è rimasta umile, ti rimane uno scambio molto forte. Certo. Invece quando incontri gente bravissima, che però ormai ha perso l'umiltà e quindi comunque ha la barriera davanti, rimani sempre deluso. Certo. Quindi... Vero, hai detto una cosa giusta. Già. Allora, a questo punto... Cosa facciamo? Cosa facciamo? Ma qualsiasi cosa. Ci fai ascoltare ancora qualcosa dal vivo? Sì, allora io adesso entro nel vivo di Francesca Romana. Ah, ok. E con un brano che è Dentro lo specchio. Perfetto. E che io canto molto male perché essendo... Sì, sì. Essendo... veramente il mio specchio, ecco, questo brano è il mio specchio, no? Quindi mi coinvolge molto e alcune volte non riesco a cantarlo come dovrei perché sono troppo presa, però lo faccio lo stesso perché penso che la musica abbia anche questo senso. Entri, cioè, quindi non canzone, fa niente, so, se non sarò molto precisa, però chi vuole conoscere l'artista Francesca Romana è giusto che ascolti questo brano, si chiama L'estranea. Ho lasciato qualcosa per sbaglio, l'orecchino sul tavolo. All'inizio c'è sempre qualcuno che ti chiama per dirtelo. Stasera forse esco, ti faccio sapere quando finisco. Poi capisco lo sbaglio e mi riprendo l'orecchino dal tavolo di legno. Muore un'altra storia di morte naturale, osservo il tramonto senza fumare. Voglio vedere me stessa tutte le volte che mi guardo riflessa dalla parte opposta, come se ci fosse un'altra risposta. ogni posa è una mossa studiata. E anche stavolta mi sento sbagliata, ancora troppo storta, e ritrovo l'estranea sulla porta. Sono vera nel fondo del pozzo, nello specchio di una pozzanghera. Ho lasciato la chiave sul fondo, nel fango e sul bordo la maschera. Voglio vedere me stessa tutte le volte che mi guardo riflessa dalla parte opposta, come se ci fosse un'altra risposta. Ogni posa è una mossa studiata, e anche stavolta mi sento sbagliata, ancora troppo storta, e rivedo l'estranea. Muore un'altra storia di morte naturale, osservo il tramonto senza fumare, mi cade di mano una chiave, c'è una pozzanghera, mi lascio guardare, e mentre la chiave non trova la mano, l'immagine parla, mi dice partiamo, mi lascio tirare dal braccio la vita, giro la chiave, giro le dita. Voglio vedere me stessa tutte le volte che mi guardo riflessa dalla parte opposta, come se ci fosse un'altra risposta. Ogni posa è una mossa studiata, e anche stavolta mi sento sbagliata, ancora troppo storta, e ritrovo l'estranea sulla porta. Ho lasciato qualcosa per sbaglio, l'orecchino sul tavolo, ora che non esiste nessuno che mi chiami per dirmelo, esisto io. Vorrei riuscire a non perdere mai quel sano entusiasmo per l'arte che mi spinge da sempre a vivere senza dare peso alle cose materiali. Francesca Romana Perrotta. Che bella questa canzone, che bella. Adesso te lo posso anche dire, questa è la canzone che preferisco dal disco. Ah, bene, bene. Sì, sì. Non te l'ho mai detto, ma insomma, questa è la canzone. Sì, sì, sì. Però è tutto bello, eh. Però no, no, ma ci devono essere le preferenze. Io ce l'ho. Qui noi della redazione abbiamo scritto sulla recensione uno dei pezzi più significativi, più complessi, ma è significativamente una ballad. Noi abbiamo scritto questo. Più tesi, più complessi, più profondi, perché si vede già l'interpretazione che hai dato adesso, acustica, assolutamente dal vivo, in questo momento 21:57. E vuol dire, è la traccia numero 5, la traccia centrale del disco. Sì. È significativamente la traccia centrale. Sì. Vedi, i numeri non sono messi a caso. Sì, sì, assolutamente questa, no. Assolutamente, anche in vermiglio abbiamo una traccia numero 5 assolutamente significativa. Sì, sì, centrale, la sento, la dovevo anche proteggere, tra virgolette, forse anche nascondere in mezzo agli altri, perché... appunto ho questa questo doppio sentimento nei confronti di questo pezzo, per cui certe volte vorrei che non vorrei che tutti sapessero che è il mio specchio. Poi lo dico sempre, quindi lo dico sempre durante i live e alla fine lo sanno sempre tutti, però spero che alcune persone non lo sappiano, perché è come avere i nervi scoperti, no? E quindi alcune volte io ho incontrato persone senza scrupoli, ciniche o magari che per invidia volevano ferirti, e quindi se qualcuno poi scopre questi nervi scoperti miei, non vorrei che ne approfittasse, insomma. Chiaro. Hai accennato alla traccia centrale del disco Vermiglio, vuoi che ce l'ascoltiamo così ti riposi un po'? Sì, sì, ci tengo molto a questa, a questo pezzo. Ok, adesso lo sentiamo, Vermiglio, che è un disco importante, visto i grandi protagonisti che ti hanno dato una mano, chiaramente. Sì. Decisamente musicisti di grande valore, sì. italiani. Anche nello specchio. Anche eh? Nello specchio, sì, poi ne parliamo, sì, sicuramente. Allora, la traccia è la traccia numero 5 e si chiama? Paolo. C'è qualcosa che devi dire su questa canzone? Sì, è un altro... Si chiama Paolo, ma si parla di un altro personaggio femminile a cui sono molto legata, che ha il mio nome, si chiama Francesca, si chiamava, e quindi si parla di Paolo e Francesca, questi due amanti storici, e emblema insomma della, dell'amore clandestino e dell'amore impossibile. E un grido e una preghiera di dolore di Francesca nei confronti di colui che ama e che non potrà mai avere, perché poi... No? Dante sì, sì. Come punizione dà proprio il fatto che loro si possano guardare, si possano vedere, ma non si possano poi toccare mai. E quindi è Francesca che col suo pianto insomma si lamenta e si rammarica di questo, di questa punizione. Ok, Paolo. Sera. Blu Radio Sera. 22 passate da 3 minuti in questo preciso istante. Questa è Blu Radio Valenza, la vostra emittente preferita. In questo istante, appunto, giro di parole, c'è Romana, Francesca Romana Perrotta in studio con noi, con Agostino e con Maurizio. E appunto c'è Francesca Romana Perrotta. Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiude gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna bello sguardo, Anna che vorrebbe andar via. Marco, grosse scarpe, poca carne. Marco, cuore in allarme. Con quest'aria da commedia americana sta finendo anche questa settimana. Se chiude gli occhi lui lo sa. Lupo di periferia. Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo un biliardo. Quante stelle nei flipper sono più di un miliardo. Marco dentro al bar, chissà cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto e si può andare in città. Ciao Lucio. Ciao Lucio. Grazie Francesca. Lo dovevamo. Grazie a Dalla, diciamo, no? Perché proprio bisogna veramente ringraziare. È difficile. Certi autori, sì. È difficile parlare di questo grande artista. Sì, sì, no, è stato. Cioè, è facile perché ne ha fatto tantissimo per la musica italiana, ma è anche difficile in questa triste giornata, insomma. Ma è pazzesco perché proprio ne parlavamo anche con una mia amica cantautrice giorni fa, proprio parlando di Sanremo, di quello che aveva fatto e del fatto che era tornato a scrivere in un certo modo. E poi era stato bello questo passaggio di testimone, cioè la canzone spettacolare che ha scritto, cantata da un ragazzo giovanissimo, lui che dirigeva l'orchestra. Ero felice di aver ritrovato il Dalla che avevo conosciuto da piccola, che per un po' di tempo forse si era perso, avevo perso. Però se è morto in tournée, se doveva. No, stava per cominciare. Stava per cominciare la tournée. Così ho letto, poi non so, stava preparando la nuova tournée. Diciamo, se è morto così, però mentre era di nuovo immerso nella sua creatività, nella sua musica, comunque va bene, insomma, penso che ogni artista, a prescindere dall'età in cui poi se ne va, voglia morire mentre ancora sta creando, sta facendo delle cose belle. Spero, insomma. Sì, perché un musicista anche al di là della morte fisica non muore mai. Sì, assolutamente. Adesso sarà più vivo che mai, sicuramente, come succede sempre. Spero che appunto a questo punto, visto che lui non c'è più, che chi non l'ha conosciuto in passato lo riviva, lo riveda, lo ritrovi, perché ha scritto dei capolavori. Adesso io ho preso questa canzone a caso, dal mio DNA, perché proprio non l'avevo mai suonata, però pensavo in macchina a tanti brani, mi veniva in mente una marea di canzoni, tra me e me dicevo, ma guarda che cosa ha scritto, questa e poi questa, insomma, infinite, certo. Va bene. Certo. Grazie comunque della chicca, dell'esclusiva. Del ricordo. Allora, bene. Ma tu c'hai anche un'altra passione oltre a Lucio, c'hai anche la passione di un altro Lucio. Questo Lucio è senza niente togliere a Dalla, insomma. Sono due cose diverse, cioè, certo. Parlando del mio Lucio, che è Lucio Battisti, io parlo proprio di Di un cantautore che mi è entrato dentro subito. Mm-hmm. Mia zia lo ascoltava, io ero piccola e avevo il poster nella camera di mia zia dove io passavo tutte le mie malattie, non, dal morbillo, cioè io ero sempre a casa dei nonni e della zia, quindi avevo Lucio Battisti con i suoi capelli ricci, col foulard, sì, di Acqua Azzurra Acqua Chiara, all'epoca, sì, di Acqua Azzurra Acqua Chiara, bravissimo Maurizio, esattamente, e lo amavo alla follia. E poi dopo non ho più smesso, anche quando ho cominciato a scrivere con Panella, sì, certo, l'ho seguito. E tra l'altro mi ha insegnato, perché io all'epoca poi sì, un po' canticchiavo, però suonavo principalmente il piano, no? Sì. Ero, cosa che studiavo, ti piace al conservatorio. Di Lucio, cosa che ti piace particolarmente? Non riesco proprio perché dicevo, lui mi ha insegnato, infatti adesso ti rispondo, Ago, mi ha insegnato la varietà. Non puoi fermarti in un genere. Per fortuna anch'io, che scriva bene o scriva male, poi questo lo devono dire gli altri, però anch'io non mi fermo a scrivere solo la ballata da cantautrice, poi magari mi può venire un brano più pop, un brano più rock, un altro più melodico. Mi piace Battisti per questo, come i Beatles, cioè non puoi dire che avesse un genere, lui sapeva fare tutto. Sì, esatto. Io non sono minimamente paragonabile, però devo ringraziarlo se non mi sono lasciata incastrare da un genere. Da un genere? Sì. Sì, perché da Era ad Hegel sono passati tanti anni. Era, sì, il primo singolo, sì, ad Hegel, sì, che è l'ultimo, uno degli ultimi progetti con Pasquale Panella. Sì, sì. Era sempre lui. Con Panella lui ha scritto una frase che per me è un capolavoro. Del Don Giovanni. Ah, bellissimo. Non disco bellissimo. Penso quindi tu sei... È bellissimo. È quello, un pezzo bellissimo. Don Giovanni, forse il disco, sempre scritto con Pasquale Panella, però che ritorna al Battisti precedente, al Battisti come gol, sì, secondo me. Don Giovanni era, sì, molto bello. Molto bello, molto, molto significativo. Che significativo musicalmente abbiamo adesso di Francesca, musicalmente, cioè dal vivo? Cosa ci fai sentire adesso? Dobbiamo parlare degli ospiti importanti di questo disco. Parliamo, sì, certo, sì. Allora, infatti, prima stavamo parlando di cantautori, certo, no? Certo, sì. E prima abbiamo parlato del premio De André. Di Cristiano De André. Di, sì, Cristiano. Con Cristiano la collaborazione è andata avanti oltre il famoso duetto su Creusa De Ma, dove io ovviamente, perché stavamo a cena, in chiacchiere, chiacchiere da dopo cena, non so se avete presente, verso le 4 del mattino. Ah, bene, beh, suo alla papà era, del dopo cena. Suo papà era così. E io pure ero così. Adesso non sono più, per motivi familiari, mi sono ridimensionata, però fino a 2 anni fa... fisso, sì, anch'io. Ed eravamo in questo ristorante di Leuca, proprio in relax totale, e sono quelle chiacchiere dopo cena dove si fa proprio confessione. Non voglio dire outing perché non mi piace parlare, cioè perché esiste l'italiano, sì, e esatto, ci sono dei termini. Ecco. Meno male, una persona che si scrive in italiano. Bravissimo. È perché mi piace la mia lingua. Certo. E quindi questo momento di confessione sono venute fuori delle cose dense. Siccome lui mi aveva fatto cantare Creusa De Ma, io ho detto, adesso tu hai detto queste cose, io avevo un biglietto da visita di mia madre, ce l'ho ancora, ho detto, prendo questa penna, scrivo queste due frasi che hai detto, perché lui mi stava raccontando delle cose e io stavo raccontando a lui, e ho detto, bada che da questa frase, che mi era piaciuta tantissimo, nascerà un pezzo. E lui ha detto, va bene, te lo devo, fai quel che vuoi e vai avanti. Infatti poi sono tornata a casa al pianoforte, che è una rarità, perché in realtà il piano è il mio strumento, cioè io suono bene il pianoforte e male la chitarra, però alla fine me ne vado in giro con la chitarra. Beh, la prossima volta ti aspettiamo con l'impiano. Sì, sì, però è raro, eh? Beh, ma lo fai per me, per Maurizio, per... Ma veramente, perché io anche mi inibisco davanti anche ai miei migliori amici. Guarda, perché che... il piano è proprio, appunto, è un altro specchio di Francesca Romana, per cui lì viene a galla veramente tutto. Guarda che ti stanno ascoltando tutti, adesso la promessa l'hai fatta tu, ecco. Quindi non è una cosa privata detta fra, sì, me, Maurizio e te. Sì, sì. Quindi insomma. E quindi potete immaginare, quindi, questo brano cosa è venuto fuori tra un momento di verità, comunque tra due musicisti che parlano di cose serie. E il pianoforte che ho usato, che uso raramente, è venuto fuori il brano che poi va a chiudere Lo specchio, sì, e che per me, insieme all'Estranea, se visto che io posso dire le mie preferenze, sì, certo, su me stessa, no? Certo. Allora, per me era questo il brano che vi dicevo doveva andare a Musicultura 2010. Ho capito. Ecco. L'ascoltiamo? Lo vogliamo ascoltare? Sì, sì. Radio Veneto. C'erano le api anche di notte, la scena si bagnava di nettare di uva bianca. Dalle tue labbra preghiere al contrario, come un pennello rovesciato di Schifano, e lascia uscire i mostri verdi che sbattono sui muri. Saracena, scorgi il candore della porcellana bianca. Preso dall'infinito, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E poi comunque bisogna comprarlo questo disco, perché c'è un qualcosina dopo, ma non diciamo niente, insomma, giusto? Allora, in Vermiglio ci sono dei ingermi, cioè, ci sono degli indizi dello specchio. Nello specchio ci sono degli indizi di quello che sarà il terzo album. Ah, bello. Questi indizi sono nel Demone. Mm-hmm. E in quello che poi segue e che appunto chi acquisterà l'album sentirà, perché faccio sempre dei riferimenti, cioè, non faccio un album separato da un altro, insomma è come se fosse un tutt'uno, per cui faccio sempre riferimento al prima e al dopo, cioè è tutto un percorso, quindi sì. È così. Insomma, acquistate il disco. A proposito, Francesca, dove si può acquistare il tuo disco? Allora, i negozi, nei negozi è andato, cioè, e anche Feltrinelli, forse qualche libreria Feltrinelli ce l'ha ancora, però non penso, non lo so. Se no, su tutti i, si dice web store, comunque insomma negozi online digitali, digitali, e quindi da iTunes a tutto il resto. Si può provare ancora nei negozi, però è passato quasi un anno, per cui non lo so. Noi artisti emergenti, così ci chiamano, io poi sono anni che emergo, e siamo così un po' sfortunati, nei negozi insomma è difficile reperirli. La prima mandata, è andata bene, adesso insomma è più facile insomma reperirlo, oppure c'è un'altra alternativa via, che è quella di venire a vedere un concerto dal vivo, e io c'ho sempre insomma delle copie. E tra se qualcuno l'altro, ti scrive e ti chiede il disco? Ah, scrivendomi tipo una mail? Sì, ci hai mai pensato? Forse mi è successo qualche volta. Però quando mi è successo era in Vermiglio, avevo finito tutte le copie. Ecco. Io di Vermiglio non ho più nulla. Niente. Però se mi scrivete per lo specchio ce l'ho. Ce l'ho. Ecco. Okay. Ne approfitto per salutare Ivan Puleo che ci ha messo in contatto. Ciao Ivan, so che immagino che sarai all'ascolto, insomma, ecco. Ciao, lo saluto anch'io. Allora, ci fai ascoltare qualcosina dal vivo, poi ci salutiamo? Esattamente, ti fa sentire un pezzo che è scritto assieme a Pacifico. Sì, si chiama Contro il mio sguardo. Ok. Non sei più tu, non sei più tu, mio Dio, confondersi tra nuove emozioni. Sbagli, perdonati, tra mille altre mani e pensieri, ritornerà il giorno in cui contro il mio sguardo cadranno i ricordi, li raccoglierai proprio tu. Prezioso e smarrito, ma non mi interessa già più. Curato e sfiorito, ma non mi interessa. Così si cambierà, andando via. Io non di pace non ne ho, e non rimane che la luce di un'estate fa. Giorni di carta straccia, il vento li disperderà. Ritornerà il giorno in cui contro il mio sguardo verranno i ricordi, li ritroverai proprio tu. smarrito, ma non mi interessa già più. Curioso e smarrito, ma non mi interessa. Ritornerà il giorno in cui contro il mio sguardo cadranno i ricordi, li ritroverai proprio tu. Prezioso e smarrito, ma non mi interessa già più. Curato e sfiorito, ma non mi interessa. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la. Benissimo, come è nata la collaborazione con Pacifico? Francesca, in pochi secondi me lo spieghi? Ma è stata, abbiamo gli editori in comune, okay. È stato perché questa canzone non trovavo un testo, cioè mi piaceva, ma qualcosa nel testo qualcosa non mi mancava. Convinceva. E allora ho chiesto a lui se in quella poteva darmi una mano, perché penso che sia un autore veramente molto bravo. Certo. Quindi lui, umilmente, come dicevo prima, si è subito messo al lavoro, insomma, quindi è nata la canzone, che se no penso sarebbe rimasta invece fuori nel dall'album. Nel cassetto, da parte tua. Però forse sarebbe stata riscoperta più avanti. Pensa che oggi apro live con questo brano invece. Vedi, vuol dire che è stato molto importante. E con il prossimo invece lo chiude il live, vero? Sì, sì, esattamente. Guarda caso. Francesca, prima ti ho nominato il discorso della mail, però non l'abbiamo data. I tuoi contatti, se qualcuno ti volesse contattare. Allora, per i live, se chi vuole vedere insomma dove suono, www.francescaromanamusic.it. E mail, per chi mi voglia scrivere, francescaromana@web.libero.it. E se qualcuno ti vuole invitare a cena, il tuo numero di cellulare? Non mi interessa. Non ti interessa. Francesca, siamo arrivati alla fine. Lasciamo lo spazio ad Alberto. Prima però ci fai un'ultima canzone dal vivo per salutarci. La promessa te l'abbiamo già strappata, quindi non puoi rinunciare. Col pianoforte. Ma se vuoi portare anche la chitarra insieme, puoi fare uno e l'altro. Giusto? Giustissimo. Vabbè. Allora, come chiudo i concerti dal vivo altrove, così anche in radio si chiude con Canzone Verde. Ok, allora ringraziamo di cuore Francesca per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Ti aspettiamo, come dicevo prima, la prossima volta, a presto insomma, quando sarà. Io vi do l'appuntamento a giovedì della settimana prossima. Sì, dobbiamo solo ricordare che lunedì c'è un grande appuntamento con Giulio Casale, assieme a Flavio, che lo conosci Giulio Casale? No, ma mi piace tantissimo. Perfetto, un grandissimo. Salutatemelo, non lo so. Indubbiamente. Ecco, lo ascolterai se vuoi ascoltare in streaming. Sì, poi è veramente fantastico. Bene. Bene, allora Agostino Spolaore e Maurizio Calzavara vi danno il loro buonanotte, insomma, una buona serata e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto, che continuano con Alberto Prisco e la sua musica rock e la classifica anche, quindi ti invito anche ad ascoltarla se sei in auto, magari mentre te ne torni a Bologna puoi ascoltarlo, e l'appuntamento è appunto con il sottoscritto giovedì della settimana prossima. Francesca, un abbraccio, un bacione grande da parte mia. Alla prossima, dai. Anche per la nostra amicizia. Sì. Va bene. Grazie, ciao. Francesca. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Pensi di esserci. Pensi di arrenderti se stai cercando un modo di ucciderti ancora un poco. Il sole che sale, l'odore di una mattina tua madre. grida da sopra le scale, fa male, fa male. Lo sguardo della gente, quello di lui che non sarà per sempre, la delusione che dà, fa male, fa male. Pensiti resistere e pensiti comprendere il senso tutto questo, puoi darlo solamente tu. Il sole che sale, l'odore di una mattina, tua madre che grida da sopra le scale, fa male, fa male. Lo sguardo della gente, quello di lui che non sarà per sempre, la delusione che dà, fa male, fa male. Credimi, puoi vivere lasciando che tutto scorra piano sopra di te. Grazie, buonanotte.